Ciao, sono la fine del mondo. Scusate il disturbo, non volevo venire. Imbarazzato credevo nell'avvenire. Colpa della luna scocciata, stanca di una serie scadente infinita. Mi ha svegliato per guardare l'ultima puntata e fare male da morire. Oggi ha un nome, si chiama futuro senza domani. Tremate cattivi bambini, stringete la mamma. C'ero quasi, mancava uno sputo. Una parola scandiva la voce del mondo così. Aiuto, soltanto una ragazza dalla pelle bianca, non come il latte ma come la calma. Sorrise e chiese perché. Cosa sta succedendo? Una parola così facile scatenò il finimondo. Non so fare altro, scelgo il modo, un attrezzo, poi non ci penso. Ma le risate che sento dalla pancia in profondo si prendono gioco di me. È bastato un momento e io come un citrullo non sapevo colpire perché. Fregato anche io dall'amore, non sapendo cosa fosse amore. Io che dovevo cancellare i batticuori, soffocare tutte le ambizioni, ero tentato dal domani di quella voce flebile, bellissima. Nei suoi occhi la sicurezza di una coperta quadrivecchia. Può finire il mondo, ma lei ci sarà per vivere e poter campare. Guarda che mi tocca fare, devo saper aggredire il mare. La sua pelle bianca come la calma, bacio ai cattivi e due alla mamma. Non avete capito la tenerezza, ma sorriso e chiesto perché. Era quello il suo nome, non l'ho ancora detto. Mi sto distraendo, colpa dei colpi che sento tra la pancia e il profondo. Urlano forte il suo nome. È bastato un momento e io come un citrullo avevo smarrito il potere. Se mi chiamassi principio avrei potuto ascoltare, conoscere in fondo l'amore. E invece sono la fine, solo devo restare. Chiedo scusa alla luna. Irresistibile mi ha fatto fuggire.